Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e buona giornata a tutti. Giovedì scorso, il 7 aprile, è entrato in vigore il decreto legislativo sul federalismo municipale ed è diventato operativo anche il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate necessario per mettere in moto il nuovo meccanismo della cedolare secca sugli affitti. Ha preso dunque il via una delle novità più attese nell'ambito della riforma federalista, novità definita da qualcuno la maggiore novità fiscale del 2011, la possibilità cioè di pagare sui redditi da locazione un prelievo sostitutivo del 19% per canoni concordati o del 21% invece dell'imposta calcolata con le aliquote ordinarie IRPEF, che nella maggior parte dei casi è più pesante. Chiaro che l'applicazione interessa a tutti i proprietari immobiliari che affittano un'abitazione, naturalmente anche gli inquilini a seconda della scelta fatta dal proprietario. Tra l'altro, esattamente da una settimana, chi registra i nuovi contratti d'affitto deve mettere per iscritto il regime per il quale optare. Il Sole 24 Ore calcola che la scelta dovrà essere effettuata da almeno 2 milioni di proprietari di immobili e molti di voi ci hanno scritto in questi giorni proprio per chiederci di affrontare l'argomento, perché non è facile ed automatico fare un calcolo di convenienza del nuovo regime, che è facoltativo appunto ed offre delle alternative. Allora noi stamattina cercheremo di mettere un po' di ordine in questa materia, che non è complessissima, però appunto il tema centrale è fare il calcolo di convenienza a seconda del reddito percepito, capire quale opzione è meglio adottare da parte dei proprietari di immobili. Allora, Nicola Cavalluzzo, Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi e ringrazio anche per essere ritornata con noi Isabella Tulipano, sull'affitti, franchising immobiliare appunto nel settore degli affitti per l'appunto. E Tulipano, buongiorno e grazie, buona giornata. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio, sì, l'ho resa femminile stamattina, salvadanaio@radio24.it. subito la nostra scheda che ci riepiloga i termini della questione. Cedolare secca sì o no? Questo è il dilemma che si pongono da giovedì scorso, 7 aprile, 2 milioni di proprietari di immobili affittati. La cedolare secca sostituisce l'IRPEF, l'addizionale comunale e regionale, l'imposta di registro e l'imposta di bollo. Al loro posto si pagherà appunto un'imposta sostitutiva pari al 21% del canone di affitto, che diventerà il 19% per i contratti a canone concordato nelle città ad alta densità abitativa. L'opzione è facoltativa e la scelta spetta al locatore. Per coloro che registrano un nuovo contratto di locazione, l'opzione per la cedolare verrà esercitata direttamente in fase di registrazione. La scelta e la registrazione del contratto possono essere fatte online usando Siria, il servizio internet messo a punto dall'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda invece le locazioni già in essere, il locatore indicherà la scelta nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. In questo caso, così come avviene con l'IRPEF, il proprietario dovrà versare l'acconto in due rate. Il 16 giugno, con una maggiorazione dello 0,4% entro il 18 luglio, e il 30 novembre, a meno che gli importi in gioco siano bassi. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Vi ridò anche gli altri canali per intervenire e porci i vostri quesiti: l'SMS 349 238 6666 o l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Facevo una chiacchierata prima, ovviamente essendo qua il nostro ospite negli studi di Milano, con Nicola Cavalluzzo, anzi lo facevamo questa chiacchierata con una collega che ha proprio bisogno entro breve termine di stabilire qual è il miglior regime che può adottare appunto, e quindi chiaramente il termine fondamentale è valutare la convenienza economica di scegliere o il mantenimento appunto dell'aliquota IRPEF oppure aderire alla cedolare secca. E dicevamo che effettivamente Nicola Cavalluzzo, essendo un commercialista, diceva tutto sommato la normativa è semplice. Non mi sembra esattamente così, adesso la voglio provocare naturalmente, rispetto effettivamente a tutti gli altri provvedimenti che verranno adottati progressivamente anche nei prossimi mesi nell'ambito della riforma federalista. Forse questo è uno dei più chiari, anche perché entrando a regime nel giro di poco, chiaramente forse lo deve essere per i contribuenti. Quali sono i nodi che anche i commercialisti fanno fatica a comprendere, voglio dire, oppure a suggerire ai contribuenti? Il primo ragionamento che viene fatto in questi casi chiaramente è un ragionamento di convenienza economica, altrimenti il gioco non vale. Per poter fare questo tipo di ragionamento, quindi, bisogna conoscere tutte le variabili in gioco. Il vantaggio di questa nuova imposta sostitutiva o tassa piatta, se non ricordo male come è stata definita, anche sul sole, esatto, dalla, è stata dalla stampa così. Ed è un'ottima definizione. Tra l'altro, prima mentre si parlava del nuovo modello Siria, se non ricordo male è una cantante più o meno famosa, sì, che si troverà improvvisamente tutti i giorni citata su questi giornali, quindi è sempre un problema andare a cercare di trovare una simbologia per questi modelli. Allora, torniamo a noi. Calcolo di convenienza economica, certamente, perché altrimenti la scelta non è possibile fare. Ho detto prima che non è un'operazione impossibile. Perché? Perché a differenza di tante altre occasioni, il Ministero è stato di una tempestività, non ha assolutamente sfruttato il lungo tempo che il legislatore gli aveva concesso per il famoso provvedimento che è già stato emanato, quindi abbiamo già subito una serie di risposte a tanti interrogativi. Per esempio, uno dei primi interrogativi che ci si poneva era: ma questa opzione è un'opzione che deve essere resa obbligatoriamente per tutta la durata del contratto, oppure ho la possibilità di entrare e uscire? È importante, perché io non posso prevedere il futuro. Un contratto di 4 anni, prorogabile di altri 4 anni, non mi consente di poter dire da subito è sicuramente più economica l'una o l'altra scelta, perché ipotizziamo che dopo qualche anno ho un problema ai denti. Sappiamo che le spese dentistiche sono sempre abbastanza importanti. Optando per la cedolare secca, chiaramente mi precluderei l'operazione detrazione d'imposta. Ecco allora che la scelta del Ministero di consentire un'opzione valida per tutto il periodo, ma con facoltà di uscirne a scelta, esatto, di una sorta di recesso da parte del contribuente, annualmente sicuramente questa scelta si può fare. Ogni anno io posso scegliere se stare dentro o uscire, quindi questa è una grossa apertura, quindi è un primo problema risolto. Secondo problema che si poneva era in presenza di comproprietari: la scelta dell'uno implica anche una scelta obbligata dell'altro? No, ancora una volta, massima libertà. In questo senso la semplificazione. Andiamo oltre. Quindi io e lei siamo proprietari della stessa abitazione, io posso scegliere la cedolare secca, lei può scegliere detrazione IRPEF. Per il semplice fatto abbiamo due diverse dichiarazioni dei redditi, certo, e quindi potremo avere due diverse opzioni. Non solo, l'altro problema che si poneva, ma tutti gli immobili intestati alla stessa persona sono soggetti allo stesso regime, oppure posso scegliere uno dentro e uno fuori? Ancora una volta il Ministero è stato di maniche assolutamente molto larga, flessibile. Molto flessibile, per cui ecco, da questo punto di vista è una imposizione semplice, e soprattutto perché mi va a prendere dentro tutta una serie di altre imposte, quindi io ho un unico importo, un unico adempimento, un unico pagamento, ed evito tutta quella serie di adempimenti, pagamenti, certo, che molte volte creano anche difficoltà. D'altronde non è che come dire il governo lo abbia fatto perché è sempre particolarmente magnanimo nei nostri confronti, ma perché c'è tanto nero che circola nel settore, per cui chiaramente elaborare anche una imposizione fiscale semplice forse porta molti contribuenti a far emergere la propria posizione. E tra l'altro, guarda, già in un minuto devo andare nella prima pausa, però una battuta di Isabella Turipano di Solo Affitti volevo farla. I proprietari che si rivolgono a voi e che attraverso voi intermediano appunto i propri immobili e li mettono in affitto, che tipo di domande, Tulipano, vi stanno facendo in questo momento? Se c'è già un'idea rispetto al tipo di opzione di tassazione che privilegeranno, in sostanza? Sì, diciamo che i proprietari sono molto curiosi, anche perché in realtà di cedolare secca si è cominciato a parlare da anni, ma concretamente già da dicembre dello scorso anno, e quindi non si faceva altro che aspettare poi il decreto e questo provvedimento che è arrivato appunto abbastanza in fretta. E diciamo che molti dei nostri proprietari effettivamente si dimostrano favorevoli a questo nuovo tipo di tassazione, proprio perché parliamo di proprietari il cui reddito da locazione andava a sommarsi a quelli che sono i redditi personali, e quindi pagavano a volte, passavano da uno scaglione all'altro, pagando quindi delle imposte IRPEF molto alte. In questo caso, avendo a disposizione invece una tassazione secca proporzionale al canone che viene percepito, riescono immediatamente a fare un calcolo, e nella maggior parte dei casi, insomma, per i contratti liberi parliamo di proprietari che vanno a pagare meno tasse, e questa percezione comunque è una percezione sempre favorevole, quindi già semplicemente l'idea di dover pagare comunque una tassa più bassa, quindi un'aliquota solitamente più bassa, perché partiamo da un'aliquota del 21% contro un'aliquota IRPEF che partono dal 23%, quindi sicuramente, insomma, c'è una convenienza notevole. Certo, allora però la casistica non è tutta uguale, adesso noi magari cercheremo di affrontare anche qualche caso particolare nell'ambito del quale possono ricadere anche gli ascoltatori che ci seguono da casa. Io saluto, non riesco ancora a sentirli, Franco da Busto Arsizio, Stefano da Milano, Luigi dalla provincia di Lucca, che sono già pronti con i loro quesiti. Andiamo per qualche minuto in pausa, ma torniamo tra pochissimo. Allora, eccoci di nuovo insieme, Salva Danaio. Oggi si parla della cedolare secca per 2 milioni di proprietari di abitazioni affittate. È arrivato il momento della scelta: cedolare secca sì o no, questa aliquota al 21% sul reddito da locazione, che diminuisce al 19% se si è stipulato un canone concordato con l'affittuario, chiama tutti fin da subito a destreggiarsi fra due momenti chiave. Vi leggo proprio l'attacco del pezzo del Sole 24 Ore di ieri mattina: l'esercizio dell'opzione e il pagamento dell'acconto di imposta. Come devono fare i proprietari delle abitazioni, per l'appunto, come fare un calcolo di convenienza se aderire alla nuova opzione, appunto, del fisco, oppure mantenere il vecchio regime fiscale, quindi la detrazione IRPEF o l'aliquota IRPEF. Allora, stamattina ne parliamo con Nicola Cavalluzzo, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Isabella Tulipano. Solo affitti, sono arrivate, stanno arrivando tantissime domande da parte vostra. Chiariamo subito un aspetto, Nicola Cavalluzzo: a questo regime della cedolare secca possono aderire solo le persone fisiche, sono esclusi i lavoratori autonomi e le imprese. Molti ascoltatori ci chiedono, per le proprietà di natura commerciale, come ci dobbiamo comportare? Allora, facciamo un piccolo approfondimento. Dal punto di vista del locatore, la norma è sufficientemente chiara, anche se poi il Ministero nel provvedimento ha ulteriormente ristretto il campo. Se noi ci limitassimo alla lettura della norma, soggetto passivo dell'imposta è colui che tassa il reddito fondiario ai fini dell'IRPEF. Tassare ai fini IRPEF tecnicamente non significa solo persone fisiche. Poi c'è un'ulteriore parte della norma che mi dice: guarda che in ogni caso sono esclusi coloro che sono soggetti al reddito d'impresa e esercitano un'arte e professione. Quindi qui sicuramente il richiamo è alle persone fisiche, ma quello che mi dice il primo comma dell'articolo 3 avrebbe potuto anche essere interpretato come possibilità da parte di un altro soggetto che è molto particolare, che è la società semplice, di poter scegliere questo regime, cosa che è stata assolutamente esclusa dal Ministero, perché se noi leggiamo l'attacco del provvedimento mi parla solo di persone fisiche. Quindi locatore deve essere persona fisica, oggetto del contratto deve essere un immobile abitativo, quindi classificato in A. E quindi tutte quelle tipologie che non sono classificate in A, ma in cui vivono in ogni caso delle persone, poi se del caso approfondiamo la tematica, dovrebbero essere escluse da questa tipologia di tassazione. Immobile abitativo per uso abitativo. A questo punto quindi non abbiamo mai toccato la figura del locatario, del conduttore, cioè colui che è all'interno dell'immobile, per cui persona fisica che affitta, che dà in locazione ad altra persona fisica, nulla questo, sicuramente rientra nella norma. Ma rientra anche nella norma la persona fisica che affitta l'unità abitativa ad un ente collettivo, ad una società. Ad esempio, se io avessi un appartamento disponibile e lo concedessi in locazione, lo do ad un dentista che vuole farci il suo ambulatorio. A questo punto però non devo affittarlo come ufficio, perché altrimenti sarei fuori. Io lo affitto a un soggetto che mi dichiara che lì metterà una abitazione secondaria, primaria, non mi interessa. Bene, io sono a posto, io entro in cedolare, è la persona che, tra virgolette, ma molto tra virgolette, utilizza in maniera impropria l'immobile, è un abitativo, dovrebbe usarlo come abitazione. Ah, quindi il proprietario non ha eventualmente nessuna responsabilità di questa destinazione d'uso? Se non ne fosse a conoscenza, no. È chiaro che cambia tutto il contratto. Magari ho fatto un esempio poco calzante, il dentista che mette sull'ambulatorio in questa casa che affitta, una cosa. Però magari, che ne so, un consulente finanziario che riceve dei clienti, ovviamente si ha una stanza, adibisce a studio, questo è chiaro che è una cosa completamente diversa. Assolutamente, è chiaro, qualunque professionista diverso da un professionista che utilizza in maniera importante macchinari, come un dentista, ma può all'interno della propria abitazione fare anche destinare una parte dell'abitazione a studio professionale. Un commercialista all'inizio della sua attività non necessariamente prende studio. Esatto, quindi mette una stanzetta e lì dentro fa le sue cose. Perfetto. Piuttosto che un consulente del lavoro, piuttosto che un avvocato, all'inizio va tutto però bene. Però insomma, per essere proprio stringenti e chiari, i locali ad uso commerciale non possono essere sottoposti al regime della tassazione secca, della cedolare secca, punto. Assolutamente no. Perfetto. Andiamo alle domande dei nostri ascoltatori, cominciando con Stefano da Milano, che ci chiede di chiarire il punto sulla eventuale retroattività della norma. Stefano, buongiorno. Stefano? Sì, buongiorno. Eccoci qua. Sì, sì, buongiorno, salve. Niente, volevo sapere, noi siamo proprietari di diversi immobili e volevo sapere se i contratti che sono già in essere precedentemente possono essere soggetti alla tassazione della cedolare secca o vale soltanto per i contratti che stipulo da adesso, dal 7 aprile in avanti. Grazie Stefano. Allora, Isabella Tulipano, se la sente di fare lei la consulenza al nostro ascoltatore, perché magari è un caso anche piuttosto frequente che vi può capitare come intermediazione di immobili. Diciamo che la norma si applica ai redditi prodotti a partire dal 2011, quindi anche per i contratti in essere, e in questo caso diciamo, in sostanza è come se da giovedì 7 stamattina ho la patata in bocca, partisse una sorta di regolarizzazione un po' delle situazioni. No? Sì. Ecco. Sì, sì. Anzi, c'è tempo fino al 6 giugno in realtà per lasciare insomma i proprietari decidere, quindi valutare bene la normativa, calcolare insomma se c'è convenienza e poi scegliere l'opzione eventualmente per la cedolare secca. Quindi per i contratti in essere c'è tempo fino al 6 giugno e in questo caso insomma si può, ovviamente non c'è modo di vedersi restituire quella che è l'imposta di registro che si è già versata, perché abbiamo detto che la cedolare secca in realtà copre anche l'imposta di bollo e l'imposta di registro. Nel caso di un contratto che è partito a febbraio, per il quale quindi ho già versato l'imposta di registro e l'imposta di bollo, queste non mi verranno restituite. E infatti, Tulipano, guardi, allora, se un attimo di pazienza le metto dentro anche la domanda di Franco da Busto Arsizio, che proprio credo avesse un caso di questo genere. Franco, buongiorno, lei ha già registrato il suo contratto il primo aprile, vedo. Esatto, il primo aprile diciamo era il proseguimento di un contratto di 4+4. Quindi no? Un rinnovo. No, il problema è che io mi sono proprio rivolto, vabbè, a un CAF e a un'agenzia, no? È l'agenzia con cui ho fatto il contratto, i primi di aprile, quelli dicono no, va pagato, non c'è problema. Vabbè, io l'ho pagato proprio il giorno, il 7, che la prima notizia è uscita sul Corriere. Prima sono andato in banca, poi ho pagato. No, se avessi fatto il contrario forse sarebbe stato meglio. Ecco, diciamo, vorrei sapere, quello che ho pagato probabilmente le perdo, credo, se sono ancora in tempo a scegliere cedolare secca. Certo, Franco, la ringrazio. Allora, Tulipano, torno da lei. Sì, appunto, purtroppo insomma per Franco sicuramente quello che ha versato non gli verrà restituito, però è ancora in tempo, a tempo appunto fino a 6 giugno per insomma completare la sua scelta e quindi completare quel modulo da presentare comunque all'Agenzia delle Entrate direttamente per via telematica, quel Siria a cui accennava. Che non è la cantante che dicevamo prima, esatto, sì. Per insomma esercitare la propria opzione eventualmente per la cedolare secca. Certo. E in questo caso bisogna ricordarsi di mandare una raccomandata all'inquilino nel quale si dice che optando per la cedolare secca in questo modo si rinuncia all'aggiornamento Istat. Ah, ecco, questo è anche una cosa importante. Stavo guardando appunto anche come funziona questa compilazione di questa del nuovo contratto, registrandosi attraverso appunto il canale online, attraverso il nuovo software appunto dell'Agenzia delle Entrate e quindi Siria, come dicevamo. Bisogna intanto ricordare che lo può fare chi possiede il PIN dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Nicola Cavalluzzo, sto leggendo appunto le istruzioni. Il sistema credo che guidi in maniera anche abbastanza semplice il contribuente nell'elaborazione appunto della modulistica. Il modello è composto da due pagine, rilascia una ricevuta una volta compilato il modello? Sì, come sempre, poi arriva la ricevuta, bisogna scaricarla, oppure in alternativa ci si può rivolgere chiaramente a un intermediario abilitato. Quindi un commercialista abilitato, sta portando l'acqua al suo, sono tanti. Ci mancherebbe. Anche il CAF ovviamente lo può fare. Assolutamente, esatto. Tutti quelli che sono abilitati. Anche se poi qualche CAF da qualche informazione appunto. Ma mi stavo chiedendo, ritornando al caso del nostro ascoltatore di Busto Arsizio, che lui dice insomma io ho già registrato il contratto il 1 aprile, ma voglio dire, se il contratto andava comunque a scadenza entro quel termine, andava rifatto in sostanza, forse lui aveva anche poche alternative o comunque poteva aspettare. Contratto scaduto, esatto, allora su questo aspettiamo un attimino cosa ci dirà la circolare, ma è chiaro che un contratto scaduto andava registrato, la norma è in vigore dal 7 di aprile, non vedo sanatoria in questo, in questo momento, quindi un contratto già registrato, come detto, l'opzione, c'è tempo fino alla dichiarazione dei redditi per poter optare per la cedolare, quindi c'è un bel po' di tempo. E d'altra parte, usando il famoso adagio napoletano, che ha avuto e che ha dato, non si torna indietro. Avevo capito che Nicola Cavalluzzo, peraltro, adesso la racconto questa cosa così impare, è stato a lungo anche consulente nel mondo radiofonico italiano, per cui utilizza anche tutte queste metafore musicali questa mattina, anche perché ne ha appunto un'approfondita conoscenza, oltre che ad avere un'approfondita conoscenza del meccanismo di funzionamento della cedolare secca sugli affitti. Devo già andare di nuovo in pausa con i suggerimenti per chi è in viaggio, poi abbiamo una mail che ci è arrivata da un ascoltatore nei giorni scorsi, chiedo a Cavalluzzo di restituire perché poi la leggiamo, è quella di Diego che ci ha scritto appunto, e lui è tra l'altro un inquilino, quindi non un proprietario, mettiamoci anche dall'altra parte per capire che cosa fare. Allora adesso sentiamo cosa succede sulle strade italiane tra poco. Allora andiamo ad altre domande di altri ascoltatori. Ah, Riccardo da Milano, questa è bella, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Ci dica, sì, so che sto facendo aspettare anche lui. Penso che in parte voi mi abbiate già risposto, perché comunque quando avete parlato del fatto che se è possibile applicare la cedolare secca sugli immobili commerciali in parte, però c'è una realtà a Milano che molti conoscono e che stanno cercando di regolarizzare, però non l'hanno ancora fatto perché non è possibile, c'è stato solamente un condono di tutti quegli immobili che sono C3, che sono i classici loft dove la gente vive, principalmente vive, neanche senza svolgere un'attività. E che però insomma mediamente possono essere degli edifici adibiti anche ad attività commerciali, dice lei. Sì, potrebbero essere adibiti, però c'è molta gente che ci lavora, cioè ci vive e basta, perché è una categoria di abitazione che piace alla gente. E quindi insomma qua come ci si comporta, Nicola Cavalluzzo? Allora, vivendo a Milano sono a conoscenza, avendo anche letto gli articoli, sono apparsi sulla stampa del problema loft, diamo nome e cognome. Da quello che ho potuto comprendere, non sono un avvocato, è un avvocato chiaramente sarebbe stato molto più titolato di me, non è regolarissima la posizione di coloro che hanno locato queste unità ad uso abitativo, perché hanno l'agibilità ma non hanno l'abitabilità. Quindi di fatto una norma dello Stato non può sanare situazioni. Quindi, come diceva il radioascoltatore che saluto, chiaramente in attesa del auspicato da tanti condono, abbiamo letto, no, di un problema di bat house, quindi non è da escludere che possa arrivare Batman. Possa arrivare. Andiamo questo... anche i fumetti adesso, bene. Sì, era una casa un po' particolare che apparteneva a una persona. Già, sai che non c'ero arrivata, c'ha ragione, no, lasciamo perdere, non mi crei anche questo problema diplomatico stamattina. Assolutamente. Con il sindaco di Milano, quindi... ci vuole poco a ricordare insomma l'episodio. No, assolutamente, quindi c'è un problema. La norma è chiaro, uso abitativo, fuori dall'uso abitativo, quindi fuori dalla categoria A, e il C3 è una lettera ben diversa dalla A, la norma sulla cedolare in questo momento non si potrà applicare, ripeto. Il ministero, bontà sua, potrebbe nella circolare anche eventualmente orientarsi e mettere un'aggiuntina, insomma, un esattamente. Andiamo così, non c'è. Luigi da Lucca, buongiorno. No. Buongiorno da lei. Arrivo subito alla domanda. Bravissimo. Quattro fratelli che sono cittadini inglesi, presumo anche italiani, hanno ereditato nel 2003 un appartamento che ora è locato. Io mi pare di aver letto sull'Agenzia delle Entrate che non si può accedere alla cedolare secca se i comproprietari sono più di tre, è vero o no? Un'altra cosa, dottoressa, sì, mi scusi. Prego. Se ci rientrano anche le pertinenze, ovviamente penso di sì. Quindi garage, soffitta e quant'altro. Esatto. Vado da Isabella Tulipano un attimo, un po' per sentire questo aspetto. Tulipano. Sì. Allora, rientrano le pertinenze, sì, e quindi rispondiamo positivamente a questa domanda. Per la limitazione dei tre proprietari, in realtà si riferisce solo al modello Siria. Siria può essere utilizzato solo con un massimo di tre proprietari o tre inquilini. E per gli altri bisogna, insomma, usare l'altro modello, il classico modello 69, che è stato rivisto e quindi aggiornato con gli ultimi dati. Anche perché sennò la norma mi sembrerebbe assurdamente e inutilmente discriminatoria. Non capisco perché una famiglia numerosa non possa optare per un regime fiscale piuttosto che per un altro. Addirittura la variabile, la componente della famiglia è assurdo. Grazie Isabella Turipano. Andiamo adesso adesso Nicola Cavalluzzo si deve mettere a fare il commercialista per forza. Andiamo a Claudio da Roma. Claudio, buongiorno. Grazie innanzitutto. Vorrei sapere come si incrocia il modello 730 con la cedolare secca. In particolare, io e mia moglie facciamo il modulo 730 in forma congiunta e mia moglie è titolare soltanto di reddito da locazione di immobili, in pratica un appartamentino che dà un reddito annuo superiore ai limiti di legge di 2.420 euro, se non ricordo male, per cui è un soggetto fiscalmente autonomo. Ora, questo a cedolare secca cosa significa? Che da ora innanzi, se lei opta per la cedolare secca, non fa più il modello 730 e ritorna a carico mio? Benissimo Claudio, la ringrazio. Allora, l'unico reddito percepito da questa signora è appunto quello che deriva dall'affitto di questo immobile. Di conseguenza, optare per la cedolare significa che la signora non dovrà più compilare il 730? Io la metto giù in maniera molto banale. Quindi la risposta è positiva alla prima domanda, negativa alla seconda. Traduco. È una metodologia di tassazione, invece di andare con le aliquote progressive e quindi con obblighi dichiarativi, si opta per un'imposta secca, cedolare, ma non cambiano le regole del gioco, nel senso che ai fini dell'ISE, quindi i famosi indicatori economici, io devo tener conto anche dei redditi soggetti, non ci dimentichiamo, a imposta ritenuta a titolo di imposta a cedolare piuttosto che in esenzione, quindi questo vale sia quindi per gli indicatori e quindi anche per la fruizione di detrazione d'imposta, cioè la situazione della signora non cambia, ne ha soltanto un vantaggio dal punto di vista finanziario, nel senso che pagherà un pochettino meno imposte. E Cavalluzzo, allora dicevamo che la registrazione del nuovo contratto d'affitto con cedolare deve essere effettuata online con il modello Siria, di cui abbiamo parzialmente spiegato prima appunto i termini, ma poi materialmente il versamento dell'acconto e del saldo della cedolare secca quando e come va fatto? Dunque, i termini chiaramente sono quelli classici dell'acconto, quindi giugno e novembre. Porzione da versare in giugno è il classico 40%, novembre 60%, la misura dell'acconto è l'85% nel primo anno di applicazione della cedolare, quindi per il periodo d'imposta 2011, salirà al 95% periodo d'imposta 2012. Metodologia molto semplice, io calcolo la mia cedolare, quindi aliquota 21 piuttosto che 19, sul importo del canone risultante dal contratto. Non mi interessa cosa incasso, quello che risulta dal contratto. Applico quindi l'aliquota del 21% verso l'85, 40 in giugno e 60 in novembre, sempre che si superino chiaramente i parametri che ha prima citato prima la dottoressa. Dottoressa. Chiaramente una volta che opto per la cedolare dovrò espungere ai fini dell'acconto classico IRPEF il reddito con la porzione dal mio modello unico o mini unico piuttosto 730 per non duplicare chiaramente l'acconto. Allora sì, un'ultima cosa soltanto, ma io forse questa è una preghiera che rivolgo più al ministero che non ai contribuenti. Magari ci ascolta, che ne sa. Io penso proprio di sì. È chiaro che dovranno adeguare i loro programmi. Come ben sanno gli ascoltatori, l'acconto si può calcolare col metodo storico o col previsionale. Il previsionale è un metodo, tra virgolette, pericoloso, perché se sbaglio pago, le sanzioni sono pesanti, 30%, quindi è pesantuccia. Ecco, in questo caso io non sto calcolando col metodo previsionale, sto calcolando con il metodo storico, espungendo chiaramente dalla mia dichiarazione quella quota di reddito che non è più soggetta a imposta progressiva ma a cedolare, quindi dovranno adeguare i loro programmi, perché ipotizzando un reddito, diciamo un modello unico molto semplice, con un reddito da lavoro 100 e un reddito da locazione 10, totale 110, io opto per la cedolare, quindi il mio 10 viene fuori, ma il mio reddito da lavoro passa da 100 a 120. È chiaro che loro, quando mi vanno a fare l'acconto, mi dicono: ma tu hai cannato il previsionale, perché tu avresti dovuto versare tenendo conto del reddito 110. No, cari signori, tenete anche presente la cedolare, che non è in quel modello, ma comunque io l'acconto l'ho versato. Qua, insomma, è il presidente della vostra organizzazione che deve fare la voce alta, e speriamo di non aver generato ulteriore confusione fra i nostri ascoltatori. Ci manca un minuto, io non riesco né a sentire né Franco né Linda da Roma, perché volevo andare all'inquilino che ci ha scritto, a Diego. Allora, rapidamente, una volta che ho registrato il contratto, cosa succede in pratica? L'agenzia delle entrate mi rilascia d'ufficio un nuovo contratto, si apre una causa legale con il proprietario, Cavalluzzo. Allora, questo provvedimento ha un aspetto fiscale molto importante, quello che abbiamo trattato fino adesso, e poi un aspetto altrettanto importante di natura meramente civilistica. In mancanza di registrazione, l'inquilino può andare e registrare. Non è un nuovo contratto, il contratto tra le parti è quello che è stato originariamente pattuito, certo, con tre modifiche. La decorrenza: i 4 anni iniziano a decorrere dalla data di registrazione. Chiaramente per i prossimi 60 giorni non vale, questo vale soltanto dal 6 giugno in avanti, perché c'è la moratoria. Secondo, la proroga chiaramente parte dopo i 4 anni che decorrono dalla registrazione. Terzo, importantissimo, il canone automaticamente si abbatte da quello pattuito nel contratto, un canone che è calcolato moltiplicando per 3 la rendita catastale, mediamente un abbattimento dell'80% sul canone. Quindi proprietari attenti. Grazie Nicola Cavalluzzi, Isabella Tulipano per essere stati con noi. Ho una marea di mail da parte dei nostri ascoltatori, per cui adesso io tempesterò le vostre e mi aiuterete a rispondere a tutti gli amici che ci hanno scritto da casa. Grazie a tutti, Salvadanaio torna domani, buona giornata. Grazie.